Buonasera, vi do il benvenuto a nome della Biblioteca Claudia Augusta. Benvenuto a questa serata che fa parte, diciamo, del filone che la biblioteca dedica alla narrativa locale. E, al filone della narrativa locale noi dedichiamo anche un gruppo di lettura, non so se ne avete sentito parlare, se vi può interessare. È un gruppo che si riunisce una volta al mese, sceglie quale libro leggere e poi ne discute di letteratura locale con una coordinatrice e una bibliotecaria. Se vi interessa avere informazioni basta che vi rivolgiate alla biblioteca. Sempre riguardo alla narrativa locale, anche lunedì prossimo abbiamo la presentazione di un libro. Questa volta è al Circolo Cittadino, ci sdoppiamo perché qui avremo una serata dedicata alla musica con l'autrice Elena Bonelli, mentre al Circolo Cittadino ci sarà la scrittrice Melanie Francesca, che è un'autrice nata a Bolzano che vive a Dubai e ha già pubblicato anche lei altri libri. E, mentre sempre dedicata alla musica, invece abbiamo anche la serata di giovedì prossimo, che è con la musicista Daniela Gaetano. Vi lascio alla serata con Alberto Sulligi, che è l'autore, Antonio Merlino e Annika Schluderbacher, che leggerà parte del libro. Buona serata. Grazie. Grazie. Bene, a me tocca l'onore di presentare e tenere a battesimo per la seconda volta il bel romanzo di Luigi Sulligi. Bene, questo romanzo è stato pubblicato dal Formichiere, un prestigioso editore con sede a Foligno. Io ho avuto l'onore, e posso proprio dire così, di tenerlo a battesimo proprio nel periodo cupo della pandemia. Ebbene, vi chiederete come mai un giurista si trova a presentare un romanzo giallo, quindi un'opera di letteratura. E io rispondo a questa obiezione implicita dicendo: e come mai un noto, notissimo e illustre ingegnere e architetto si mette a scrivere romanzi gialli? Siamo pari, siamo due, come dire, elementi poliedrici. Ebbene, questo genere di obiezioni cozza, diciamo, contro quello che è uno spirito a me connaturato, ovvero uno spirito multidisciplinare. Noi oggi viviamo in un'epoca di specialismi, per cui i giuristi capiscono solo di diritto, gli ingegneri spesso capiscono solo di ingegneria, i medici solo di medicina, e si dimenticano così i nessi fondamentali tra le varie discipline. Per capire qualcosa di diritto occorre leggere buona letteratura. Ecco, c'è in sala l'avvocato Alberto Pasquali, un caso di giurista che scrive anch'egli romanzi. Ebbene, io sono convinto che vi si trovi più letteratura, più diritto nella letteratura che non nei codice civile. E così spesso, anche per quel che riguarda altre discipline, occorre avere cultura. E l'amico Alberto Sulligi è un personaggio appunto interdisciplinare, perché è in grado di spaziare in più campi e, come dire, non da ultimo quello della letteratura. Non è una cosa nuova, la grande tradizione architettonica si basava su presupposti filosofici, su un'idea di umanesimo e sul dialogo con altre discipline, col diritto, con la filosofia, con la poesia e, perché no, con la letteratura. E così nasce la passione dell'autore per la scrittura. Nel 2011, se non vado errato, quando era ancora in piena attività lavorativa, sì, infatti. No, nel 2011 pubblica il suo primo romanzo, Ne parleremo tra poco, perché menzioneremo l'opera di Sulligi nel suo complesso. Per esempio, appunto, vedremo anche l'evoluzione dello scrittore. Ne scrive un secondo, Non uccidete i leopardi, e infine pubblica Il maresciallo e la fioraia. E di che cosa si tratta? Si tratta, in fondo, di un romanzo giallo che si inserisce nella tradizione giallistica europea. Alberto Sulligi è un grande lettore, è un lettore non del primo romanzo che si trova in libreria o che si trova, peggio ancora, nelle stazioni di servizio dell'autostrada. È un lettore colto, cioè un lettore che legge la grande letteratura internazionale. Io so esserlo amante, in particolare, di Flaubert, il grande principe della letteratura francese per antonomasia. Ebbene, questi influssi sono evidenti nello stile di Sulligi. Il romanzo, intitolato Il maresciallo e la fioraia, si apre con due episodi che poi, diciamo così, da cui si dipana tutta la trama. Il primo, singolare, che diciamo cattura l'attenzione del lettore, è quello che riguarda un fatto di cronaca. Una banda di anziani che nel tempo libero e clandestinamente svolgono il ruolo di vendicatori, cioè si sostituiscono alla macchina ordinaria della giustizia per vendicare crimini di stupro. La notizia è tratta dal quotidiano Alto Adige. Naturalmente è una notizia che deriva dalla fantasia dell'autore, non c'è bisogno di dirlo, come nella migliore letteratura e cinematografia americana. E il secondo episodio riguarda proprio il maresciallo Lettu, detto Lettura, che proprio come l'autore, che diciamo discende da padre triestino e da madre mantovana, anch'egli è un incrocio di culture, di provenienze, un alter ego, un doppio, come direbbe Antonio Tabucchi, il grande scrittore e interprete di Pessoa in Italia, probabilmente un alter ego. Insomma, Lettura è un maresciallo in pensione che fa l'investigatore privato e che riceve la visita di una signora, la fioraia, Marlene Kostner, la quale sospetta il tradimento del marito. Un certo Laganà, professore in un noto liceo bolzanino, sospettato di avere una tresca molto ambigua. Da qui inizia il romanzo. Io naturalmente qui non svelerò i segreti del libro, perché sarei doppiamente traditore verso Sulligi, ma anche verso Raffaele Lettu e verso la storia che Sulligi ha inventato. Ma che cos'ha come sottofondo questo romanzo se non la grande idea di giustizia che ispira la tradizione occidentale? Michelucci, quando si trovò a scrivere, a progettare la stazione di Santa Maria Novella, si trovò di fronte a un dramma, cioè doveva riuscire a progettare una stazione davanti a quel capolavoro di chiesa. E che cosa fece? Si ispirò alla letteratura giuridica, dicendo che l'architettura era un po' come la giustizia, cioè che bisognava fare in modo che la giustizia non rimanesse soltanto prerogativa dei tecnici, della zecca garbugli di Manzoni, ma dovesse circolare ovunque nella città. E nel libro l'architetto Sulligi si tradisce, perché i riferimenti all'urbanistica, alla giustizia sociale attraverso l'urbanistica, sono molteplici. Un libro sulla giustizia, perché in fondo tutta la trama si svolge proprio nella ricerca della giustizia per un misfatto, un doppio misfatto in realtà, perché al primo crimine del quale è sospettato un certo Laganà, professore di liceo, marito della protagonista, la fioraia, che pare appunto avere una tresca con una ragazza minorenne, quindi un primo crimine, un primo delitto, E poi ce n'è un secondo perché la Ganà viene ucciso. E qui tradisco in parte, ma non sto dicendo diciamo nulla riguardo a chi possa essere colpevole, maggiordomi non ce ne sono, quindi siamo esclusi dalla banalità. E, insomma, un doppio crimine e una serie di personaggi che cerca in questo romanzo giustizia. Giustizia, e alcuni cercano più che giustizia, vendetta. E quindi qui c'è il classico problema: che cosa si fa davanti al crimine? Si riesce a separare la vendetta, che fa parte di una società di lupi, dalla giustizia, che fa parte di un ordine civile iscritto nella tradizione europea. Ecco, in questo romanzo noi troviamo le vie di Bolzano, i bar, i locali di Bolzano, perché i personaggi si danno appuntamento nelle vie del centro, mi sembra da Hopfen, no? A un certo anche punto sì, c'è un importante in Corso Libertà, in Corso Libertà, in un bar della periferia, insomma c'è tutta Bolzano, c'è addirittura lo slang della Bolzano anche giovanile, e in questo senso poi ne parleremo con l'autore e l'autore ci darà la sua interpretazione autentica. In questo senso è interessante come l'autore sia recettivo nell'interpretare il modo di parlare, ad esempio, dei giovani, utilizzandone le espressioni più comuni, a volte anche le espressioni volgari, insomma una letteratura radicalmente realistica nel dare conto di come le cose stanno e non di come le cose dovrebbero essere. Ecco, una delle cose più difficili per gli scrittori è far parlare i personaggi. Un conto è raccontare, un conto è far parlare i personaggi, perché non si può pretendere di far parlare la fioraia come parla diciamo così l'erudito e il topo di biblioteca, e quindi noi dobbiamo declinare i vari linguaggi, e in questo caso bisogna dire l'autore è magistrale, perché riesce a far parlare la ragazza di 16 anni con le espressioni della ragazza di 16 anni, il maresciallo con le espressioni di un ex militare o ex membro delle forze dell'ordine, e la fioraia come la fioraia. Ecco, in questo libro gustoso, che dicevo prima, si legge come si beve un calice di buon vino, l'autore è veramente bravissimo a condurci nel mistero di questo giallo e poi nel proporci non una soluzione del garbuglio che egli ci presenta, ma molteplici colpi di scena che portano infine a intravedere un'idea di giustizia. Ecco, io mi taccio e chiedo subito all'autore, diciamo, due cose. La prima è come nasce, dopo che ha scritto già due romanzi, come nasce l'idea di questo terzo romanzo? E naturalmente a questa idea, a questa risposta, chiedo di allegare quella che noi giuristi chiamiamo interpretazione autentica, cioè di raccontare per sommi capi anche il romanzo con una fonte privilegiata, cioè colui dalla cui penna sono scaturite queste pagine. Quindi prego. Grazie, Alberto Sulligi, a questa prima domanda. Non so se sarò all'altezza di questa dotta introduzione, mai avrei pensato che fosse così ad hoc una relazione di un giurista per questo romanzo. E mi conforta, perché vuol dire che le mie idee sono state abbastanza buone. Era tempo che volevo scrivere un romanzo ambientato solo a Bolzano, perché i primi romanzi, sì, avevano soprattutto Non uccidete i leopardi, i protagonisti sono due investigatori dell'agenzia LS di Bolzano, Bolzanini, ma l'azione si svolge nel Salento. Allora ho in mente, invece di scrivere un noir ambientato completamente a Bolzano, in cui parlare anche appunto dei quartieri, della vita della città, come si svolge, e ci tenevo a realizzare questo racconto. Quando ho iniziato questo racconto, l'avevo in mente già da parecchio tempo, perché io procedo così, mi figuro nella mente la storia, e prima di mettermi a scrivere la elaboro finché arriva il momento in cui non ci sta più nel cervello, devo scrivere. E quindi la combinazione volle che una sera a cena con Lidia Ravera, la scrittrice che voi conoscerete, mi raccontò che stava organizzando una collana di romanzi che dovevano avere alcune caratteristiche, gli autori si dovevano adeguare a queste caratteristiche, essere inediti, quindi la prima volta pubblicato, e poi i personaggi dovevano essere over 60, doveva esserci anche una storia d'amore e il romanzo doveva finire bene. Questa era. Allora io avevo in mente questo investigatore, un quarantenne, e quella sera pensai, ma forse lo faccio anch'io così, creo un personaggio invece over 60. E mi venne in mente appunto un maresciallo dei carabinieri in pensione che collaborerà con questa agenzia LS, che sarà la protagonista anche dei prossimi romanzi oltre a di quello precedente. Ci tengo a costruire questo filone con i personaggi ai quali spero i lettori si affezionino, perché può essere, mi piace insomma creare un rapporto quasi di affetto col lettore che si abitui a riconoscere certi personaggi. E allora il quarantenne divenne il maresciallo, però poi la tinta rosa nel noir ci sta, perché come ha detto anche già Antonio, ci sarà anche un innamoramento tra il maresciallo e la sua committente, e finirà bene, non in tragedia. Questo era l'impostazione del romanzo. Le donne invece, le donne protagoniste sono tutte sotto i 60. Non ho temperato alle indicazioni della Ravera. E in questa avventura di romanziere sono sempre stato contornato da donne. Oltre alle mie protagoniste, che sono sempre delle donne forti, anche la ragazza che intesse una relazione col professore di matematica, non si capisce bene se è lei che adesca, anzi io lo dico, è lei la personalità forte che adesca il suo professore, e poi ne parliamo anche di questo. E queste donne che mi accompagnano in questo viaggio di scrittore sono Giovanna, mia moglie, artista, ma soprattutto è la mia editor più severa che ci si possa immaginare. Io scrivo molto in fretta, sono preso dalle trame, voglio raggiungere certi obiettivi, e alle volte è chiaro che dopo ci vuole una revisione di quello che scrive, che la prima bozza non va mai bene. E quindi è un compito gravoso che lei si assume. Poi Lidia Ravera, che ha presentato alla mitica libreria di Stromboli il mio primo romanzo, che citava prima Antonio Merlino, L'oro di Stromboli. Poi ho colloquiato con Patrizia Zappamulas, dico tutte queste cose perché poi servono per capire qual è stata la mia evoluzione anche nel modo di scrivere. Attrice e scrittrice, non so se la conoscete, ma è un personaggio molto interessante. Ma soprattutto poi, non ultima ma nell'elenco, ma prima nell'elaborazione di questa mia carriera di scrittore, Laura Novati. Laura Novati era un personaggio che di grandissimo rilievo nel mondo dell'editoria italiana. È stata lei che poi ha corretto senza pietà la prima bozza dell'Oro di Stromboli. In questa correzione, in questi colloqui con lei, ho capito anche come dovevo procedere per scrivere, perché quando arrivi al primo romanzo, essendo io un lettore accanito, avevo in mente certi lettori, certi modi di scrivere, ma non basta per poi realizzare un buon romanzo. E questa è stata una partenza. Io direi che ho detto questo, ho risposto a questa domanda in modo eccellente, e soprattutto è interessante in queste presentazioni sentire parlare l'autore. Un conto è l'interpretazione di un lettore, un conto è l'interpretazione autentica, cioè l'oracolo dell'interpretazione, perché è la fonte. Potrei aggiungere solo che l'ultima donna che non ho nominato, è con la cui libreria è stata per me molto importante, è mia madre, anche lei grande lettrice, e quando ero ragazzo avevamo una libreria che arrivava a un soffitto di 3 metri rotti e mettevi i libri che io ragazzo non dovevo ancora leggere in cima, e poi pian piano si scendeva a seconda dell'età e potevo accedere agli ultimi. E voi potete immaginare quali sono i primi libri che ho letto. Si vede che c'è una vena, tu la chiami una vena di rosso, cioè una vena di veramente, c'è la vita che scorre in questo romanzo e c'è naturalmente anche la fantasia dell'autore nell'elaborare elementi della vita reale. Tabucchi ha scritto un bellissimo saggio sul doppio, appunto, sull'alter ego. Non parlo della letteratura dei romanzi, ma parlo della saggistica. E dice Tabucchi che in fondo per lui la letteratura era crearsi un alter ego in una situazione molto diversa dalla sua propria, che non fosse appunto nel suo ambito professionale, o a volte che non fosse proprio, non avesse niente a che fare con l'autore, ma per parlare poi di se stesso. Ora abbiamo sentito la voce dell'autore, ora sentiremo la voce del libro, perché abbiamo la fortuna e il privilegio di avere con noi Annika Schulderbach, che leggerà uno dei capitoli, anzi il prologo a questo libro. Molte grazie. Parco di Viarese a Bolzano, primi di novembre. Ore 21:32. Fa freddo, ma non troppo. 3 ragazzi sono seduti sulla panchina, ritrovo della banda al parco. Stanno bevendo delle lattine, la loro birra preferita. Quello al centro è il capo della banda, capelli neri, ricci, occhi scuri, faccia rotonda con in mezzo un naso aquilino. Sta arrotolando una canna. Alla sua sinistra è seduto quello grosso. Il suo cervello è inversamente proporzionale al peso corporeo. Di lui il consiglio professori ha scritto: se ben guidato, dimostra di sapersi orientare. Il capo lo utilizza per il lavoro sporco. È fedele e forte. Quello seduto alla sua destra è il bello. Tutte le ragazze del quartiere vorrebbero uscire con lui. Non è scemo, anzi, ma insicuro. Senza l'appoggio del capo non avrebbe il coraggio di fare alcunché. Gli altri 2 componenti la banda sono assenti giustificati. Assomigliano a quello grosso, ma con qualche neurone in più. La stronzetta che se la tira ha avuto quello che si meritava. Ce ne sarebbe un'altra ancora più carina e più stronza. Chi è? Chiede 0 neuroni. Al tempo. Poi ve lo dico. Intanto finisce di arrotolare la canna. Lui è il capo riconosciuto e indiscusso. È il più intelligente della banda. Non è che ci voglia molto, ha sussurrato una compagna di classe che stava parlando con le amiche dei 5 che stanno terrorizzando la scuola professionale. Riconoscono al capo una capacità di convincimento anche quando non usa la forza. Nessuno degli insegnanti si è accorto di nulla. Tra gli studenti vige un'omertà figlia della paura. Il capobanda proviene da un clan di semianalfabeti. L'unico modo che ha per emergere, uno che non ha voglia di studiare, neppure di lavorare, è quello. Qualcuno, o qualcuna, ha pubblicato su Facebook una poesia dedicata a noi. Ah, voleva stringere l'amicizia? Chiede il grosso. Direi proprio di no. Se lo trovo, guarda, lo riempiamo di botte. Se invece è una lei, le facciamo un bel servizio a 5 e lo postiamo pure. Adesso vi leggo. Apre il ritaglio della locandina strappata che era appesa all'ingresso della scuola. Acciughe e bulli è il titolo. Poi ci sono i nostri 5 nomi. Le acciughe stanno in branco, sembrano un pesce grande per allontanare gli squali, i predatori. I bulli stanno in branco per essere squali, predatori. Da soli sono acciughe, con la testa da acciughe. Qualcuno li pescherà prima o poi. Capo, non ci ho capito niente. Tu? Si rivolge al bello. È una poesia che ci distrugge. Speriamo non l'abbiano letta in molti. È proprio per questo che dobbiamo trovare il poeta o la poetessa e darle una bella lezione. Penso sia una femmina, e tu? È molto probabile. Dobbiamo chiedere a quel microbo che si dice sia il mago del computer. Due ombre vestite di nero, con passamontagna calato, si presentano davanti ai tre. E voi chi cazzo siete? Latra il capo. Il capo è veloce di riflessi, ha già un coltello steramanico in mano e fa scattare la lama con una certa teatralità. Anche gli altri due sono in piedi. Le ombre nere arretrano di un paio di metri, i tre si fanno avanti, non dimostrano paura, non si accorgono che dietro a loro ci sono altre due ombre in nero. Il capo avverte qualcosa, gira di poco la testa, ma il movimento viene bloccato da una randellata. Il grosso è il primo a reagire, ma sbaglia tattica, avventandosi sulle ombre davanti a lui con il coltello bene in vista. La seconda randellata stende anche lui. Il bello cerca di scappare, ma la terza randellata è dedicata proprio a lui, con affetto, dalle ombre. Le ombre non parlano, come è logico del resto. Si muovono ben coordinate. Un'ombra alta e sottile tira fuori da una borsa un tampone che passa sulla bocca e naso dei tre stesi a terra, fa un cenno alle altre ombre e l'ombra più tarchiata ha una mazza in mano e con tre colpi precisi spezza le tibie destre dei tre bulli. Poi, non contento, passa a fare lo stesso lavoro con il braccio destro. Al capo riserva il trattamento per il braccio sinistro, visto che è mancino. Quattro ombre vestite di nero stanno uscendo a passo veloce dal parco. Ansimano. Si tolgono i passamontagna, che lasciavano intravedere solo gli occhi, senza le copiose rughe che li contornano. I passamontagna di lana sono diventati dei berretti da marinaio. Prendono le borse che avevano nascosto dietro un cespuglio. Sono vestiti con tute da ginnastica nere. Sentono la sirena di un'autopattuglia della polizia. Si spostano dall'altra parte della via. Quattro innocenti anziani che si mantengono in forma facendo ginnastica. Il respiro non è ancora stabilizzato. Quando da via Druso la macchina della polizia con lampeggiante svolta in via Resia, loro stanno già salendo sulle due auto lasciate al parcheggio del palazzetto dello sport. «Ci vediamo al covo per una birra!» esclama uno di loro. «Siamo stati bravi anche questa volta! La ginnastica ci fa bene!» I figli di puttana devono capire che li attende la punizione. Dobbiamo preparare bene la quarta operazione. Ormai non possiamo più fidarci dell'effetto sorpresa. Quello che parla è di sicuro il capo del gruppo. Sembra che faccia una ringa alle truppe prima dell'attacco al nemico sul suo cavallo bianco. Brindano con quattro bicchieri da birreria, appannati dalla birra ghiacciata. È uno paziente, determinato. Ha costruito tutto per un finale che sarà spettacolare. Sono mesi che ci sta lavorando. I suoi compagni di avventura non sanno niente dell'obiettivo finale. Deve ammettere che sono bravi, anzi bravissimi. Erano già pronti prima che lui si inventasse tutto. Brava. È una bellissima lettura che avvalora la lettera del romanzo di Sulligi, cioè avvalora quello che è il testo di questo piacevole libro. E naturalmente la vera storia della letteratura, veri studi di letteratura sono studi di storia della letteratura, nel senso che dietro a un romanzo c'è sempre un contesto storico. Un romanzo non nasce, diciamo così, nel vuoto pneumatico. Un autore scrive un romanzo in un determinato periodo storico, riflettendo in codeste pagine le sue ambasce, i problemi di un'epoca, le inquietudini di un tempo. Se uno legge I Miserabili di Victor Hugo, per tornare alla letteratura francese tanto cara all'autore, non vi trova soltanto la vicenda di Jean Valjean, ma vi trova tutta la storia di Francia del XIX secolo. Se si legge Stendhal, Le Rouge et Le Noir, vi si trova in quelle pagine tutte le inquietudini di un'epoca, che poi è la nostra, quella insomma, in cui siamo ancora all'interno. Ed ecco che in queste pagine noi troviamo una spietata denuncia del bullismo. Ecco la poesia che si incastona nel prologo che abbiamo appena in maniera egregia sentito, è una denuncia spietata contro il bullismo. Sull'IGI l'ha pubblicata di recente anche sull'Alto Adige in versione forse estesa. E naturalmente qui non si tratta soltanto del bullismo come fenomeno di cronaca, ma del bullismo come fenomeno politico che noi vediamo diciamo nella nostra società, no? Il bullismo praticato da questi rei poi puniti dalla banda di anziani, ma anche il bullismo politico che connota la cronaca internazionale dei nostri giorni. Io penso che tu ti riferisca in qualche modo sempre a uno scenario più ampio, a un bullismo insomma che è prevaricazione e violenza contro tutte le norme del vivere civile e del diritto nella sua più ampia accezione. Ecco, un grande giurista, che era oltre che giurista anche scrittore, oggi dimenticato perché allora i suoi libri furono tradotti in 35 lingue, ma il giurista civilista Salvatore Satta diceva che un buon giurista deve leggere il giornale. E in effetti in queste pagine noi troviamo la cronaca, noi troviamo la vita di tutti i giorni, ma in una dimensione più ampia, cioè nella denuncia spietata della violenza. E qui torniamo all'idea di giustizia, che poi è la stella che guida queste pagine, perché in fondo si tratta di risolvere un doppio caso e quindi una doppia problematica giuridica. Per quel che riguarda lo stile, ecco due parole sullo stile. È incredibile come l'autore riesca a recuperare e a dare conto dello slang dei giovani. Zero neuroni, ma si esprimono così. Come è riuscito, diciamo, a intercettare questo slang? Prima questione. E la seconda domanda è: rispetto ai tuoi primi lavori, che io conosco bene, cioè L'oro di Stromboli e Non uccidete i leopardi, cioè lavori che risalgono a 10 anni fa, rispetto a questi libri si nota un'evoluzione nello stile dell'autore. Ecco, potresti, caro Alberto, dirci qualcosa su questa evoluzione? Che cosa ti ha spinto a modificare il tuo stile, soprattutto, correggimi se sbaglio, nel implementare i dialoghi e così anche il linguaggio dei veri personaggi, che diventano poi veramente plastici, cioè sembra proprio di vederli muoversi, agire proprio come se fossimo su un palcoscenico teatrale. Sì, grazie di questo input, nel senso che in questo libro ho effettivamente cambiato un po' il modo di scrivere, ho aumentato i dialoghi e io ho iniziato, quando ho scritto il primo romanzo L'oro di Stromboli, ero reduce da delle letture, quelle classiche della scuola, dello scientifico che ho fatto io, dove ho avuto così la fortuna di avere degli insegnanti di lettere che avevano il complesso di non essere liceo classico e che quindi ci hanno portato a leggere i classici e ad appassionarci, anche noi che eravamo in una scuola per fare della matematica più che materie scientifiche, e quindi c'è stato questo. Poi ho cominciato a leggere i romanzi americani e inglesi, mi aveva affascinato molto la differenza del modo di scrittura, cioè gli inglesi con questa scrittura paratattica, con poche secondarie, mentre ero abituato a leggere anche gli autori italiani classici, dove la perifrasi è piuttosto articolata, e con questo modo di, il modo di scrivere degli anglosassoni mi aveva affascinato per via del ritmo che questo modo di scrivere paratattico dà alla lettura, e io l'ho assunto all'inizio non così tanto, poi nel Uccidente Leopardi, che l'ho scritto un po' 3-4 anni fa, quello ho sviluppato, già ho cambiato un po' il modo di scrivere, per arrivare poi a questo romanzo dove ho fatto una scelta. Tu hai detto una, sembra quasi una pièce teatrale, ma era proprio quello che io andavo cercando, nel senso che ho aumentato molto i dialoghi e ho scritto al presente, cosa che non avevo fatto nei romanzi precedenti, e scrivere al presente ti dà un ritmo diverso, cioè io l'ho trovato molto stimolante anche per me che lo scrivevo. Poi qui a Bolzano mi è capitato di andare a un convegno in cui lo scrittore Alessandro Piperno ha presentato un suo libro che è Il manifesto del libero lettore, un libro molto interessante in cui dimostrava alcuni modi di interpretazioni di Flaubert, che io già ho sempre amato molto come scrittore, e ci ha illustrato il cosiddetto discorso indiretto libero che pratica Flaubert, che è un'innovazione rispetto agli scrittori precedenti. Già Proust bacchettava Flaubert dicendo che le sue metafore erano scadenti, le similitudini lo portavano ad abbassarsi troppo al livello dei personaggi, ma qui era il segreto innovativo di Flaubert, quello di abbassarsi cioè soprattutto di non innalzarsi mai al di sopra dei suoi personaggi, per creare una sorta di commistione autore-personaggi. Questa era una cosa che mi aveva molto colpito e che ho un po' assunto. E lui, per esempio Flaubert, lui, tu hai citato Stendhal prima, criticava Stendhal perché invece aveva un modo un po' brutale di porre, usa molto le frasi dichiarative, il personaggio riflette che, pensa che, e quindi lo dà con molta forza, mentre Flaubert, scegliendo questo metodo del discorso indiretto libero, crea una sorta di ambiguità nel suo racconto. Certamente per seguire un tipo di scrittura di questo genere ci vuole un lettore adeguato e molto concentrato. E allora ho pensato che era giusto trovare un sistema un po' misto, si vede anche in questo romanzo. Cerco sempre di eliminare il più possibile, certo, questa ambiguità, questa frammistione tra autore e personaggi è un po' complicata, e quindi bisogna trovare un sistema un po' più semplice anche nel porre questi concetti, pur lasciando liberi i personaggi. Io ho immaginato questi personaggi, come hai detto tu, li vedo e poi li descrivo come in una pièce teatrale. Quando gli attori sono in scena, il regista non c'è, l'autore neppure, e gli attori sono da soli e recitano la loro parte. E così ho un po' pensato ai miei personaggi in questo romanzo. E direi che sei riuscito a essere il nostro Flaubert, perché l'autore effettivamente in questo romanzo si dissolve. Cioè non c'è il protagonismo di chi scrive, ma il protagonismo dei protagonisti. L'autore sta dietro, anche se, come Hitchcock nei suoi film, qualche volta compare nella scena. E ci sono infatti due, due divagazioni sull'architettura e ogni certo. tanto quando c'è Piacentini diciamo così l'autore fa sentire che in fondo è un, ma del resto anche gli altri grandi scrittori lo facevano. Dante citava costantemente il diritto perché si interessava di diritto, essendo amico di Cino da Pistoia, uno dei massimi giuristi dell'epoca, maestro poi di Bartolo da Sassoferrato. Manzoni era dottissimo per quel che riguarda il diritto e citava il diritto, per esempio, nell'attuale vicenda della colonna infame, che poi costituisce non un appendice ma il cuore dei Promessi Sposi. E anche in questo caso l'autore è l'architetto e ingegnere Sulligi. Voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, che Sulligi non è solo architetto ma è anche ingegnere, anzi prima conseguito la qualifica di ingegnere, viceversa un po' difficile. Esattamente, quindi veramente ha una forte preparazione che non può, come dire, essere sommersa nelle pagine del suo libro. Ora, tornando all'idea di interpretazione autentica, anche in questo caso per dare conto di questo stile francese alla Flaubert e non alla Stendhal, direi che non c'è cosa migliore che ascoltare ancora una volta le parole dell'autore così magistralmente interpretate. Molte grazie. Mercoledì. Sono le 7:30. Raffaele ha deciso di adoperare la bicicletta. La probabilità che vada a scuola dove insegna il professor Laganà è molto alta e quindi farà la via Dalmazia in discesa, per poi svoltare in via Rovigo, dove è situato il liceo scientifico Torricelli. 7:15. La ragazza appare e velocemente sblocca la sua bici. La inforca ancora nel portico pedonale e sfreccia verso via Dalmazia. Raffaele insegue la ragazza che sembra essere al Giro d'Italia. Arrivano davanti al liceo e lei si infila nel passaggio laterale per accedere al cortile interno. Raffaele è arrivato con il fiato corto. Cerca di immagazzinare più aria possibile mentre gira la bici e si dirige al solito baretto cercando di controllare la tachicardia. Davanti a un cappuccino e cornetto con marmellata di albicocche fa il punto della situazione. La ragazza la sera va dal professore, è allieva dello stesso liceo in cui lui insegna, probabilmente anche in una delle sue classi. Di certo non va da lui per delle lezioni di matematica. Adesso deve scoprire il cognome della ragazza e sapere anche in quale corso è inserita. Lui la stima sui 15-16 anni. Gli risulta difficile indovinare l'età di una donna adolescente. Dovrebbe essere iscritta al secondo o terzo anno. Certo che se ha una relazione con la ragazza sarebbe da pigliarlo a calci nelle palle, pensa il maresciallo. Presentarsi di nuovo a scuola con la foto della ragazza sul telefono e chiedere delucidazione non è proprio il caso. Esce dal bar rinunciando per ora alla lettura dei quotidiani. Entra nel cortile interno della scuola e si avvicina alla bicicletta della ragazza. È nuova, di un fiammante color rosso, marca Marchetti. Lo conosce? È un ex corridore, ha partecipato anche al Tour de France. Sa che compra i telai e poi assembla le bici con il suo marchio. Ha in mente un trucco per riuscire a scoprire il nome della ragazza. Il negozio laboratorio di biciclette è vicino a Piazza Gries. Abbiamo trovato nel cortile del nostro condominio una bici da donna rossa, nuova, con il vostro marchio. L'hanno abbandonata senza una ruota. Domani farò la denuncia alla polizia. Se si ricorda chi l'ha comprata, la possiamo restituire. Il titolare pensa che per fortuna ci sono ancora persone oneste. Controlla un registro. 10 giorni fa abbiamo venduto una bici così. Non ne vendiamo molte di quel tipo perché sono piuttosto costose. Ecco, la ragazza è venuta col nonno, che ha pagato. Si chiama Silvia Marinaro, però non so dove abitano. Le ho fatto un certificato di garanzia. Non ha importanza, daremo il nome alla polizia. Grazie, va bene così. Loro l'avrebbero messa al deposito in attesa di denuncia di furto e chissà. Raffaele Lettu pensa che è stato fin troppo facile. Speriamo sia lei. Passa da casa a prendere la Vespa. Per oggi ne ha abbastanza di bici. Parcheggia in via Torino. Entra nel portico del condominio della ragazza e legge i nomi sui campanelli. È soddisfatto, Raffaele. Il cognome c'è. La probabilità che sia lei è almeno al 90%. Questa sera tornerà a spiare l'ingresso di quella che quasi certamente è una garçonnière. Ha un'altra idea. Se fosse in bici forse non lo farebbe, ma con la Vespa. Va fino in Piazza della Vittoria, dove è situata la storica cartoleria Libreria Cappelli. Compra una busta grande nella quale infila un libro di storia. Torna di nuovo a scuola e dietro al bancone della segreteria appare questa volta una spilungona ossuta. Posso esserle utile? Dovrei far consegnare questo libro alla ragazza Silvia Marinaro, ma non ricordo la classe. La spilungona consulta il computer. Terza A? Chi devo dire? Libreria Cappelli, ha un testo di storia. Grazie. In ufficio sistema gli appunti. Quanti anni ha? Lo saprà presto. Basterà uno stato di famiglia. Chissà da quanto tempo va avanti questa storia. Spero che il professore non abbia promesso voti facili alla ragazza in cambio di... È scafato. Ne ha viste troppe. Anche all'interno dei masi, da incesti a stupri. Ogni volta che gli capita una storia del genere ci sta male. E gli monta dentro un'ira funesta che non porterà a lutti agli Achei. Ma a qualcuno delle famiglie Laganà e Marinaro, certo sì. Non puoi immaginare quanto profetica sia questa sua ironica riflessione. Grazie per questa magistrale interpretazione che dà conto del ritmo del romanzo. Un ritmo incalzante che poi diciamo diventa sempre più serrato anche a causa degli eventi e dei numerosi colpi di scena, perché quando tutto sembra chiaro, quando tutto sembra positivisticamente risolto, ecco che la storia ricomincia e ha una soluzione, se ne sovrappone un'altra e poi un'altra ancora, fino ad arrivare allo scenario che nessuno poteva immaginare. In tutto questo la banda degli anziani è sempre in sottofondo, di questi vendicatori che però non arrivano a comminare la sanzione capitale, no? Quindi sono i principali indiziati, no? Adesso un'ulteriore domanda, magari, perché prima abbiamo evocato Pessoa. Pessoa aveva la caratteristica di inventare degli autori con cui lui, degli pseudonimi con cui egli scriveva, alterando gli stili. Cioè lui con il nome di un autore faceva l'occhiolino al futurismo, con il nome di un altro era più incline a seguire la tradizione portoghese. Ecco, inventava degli alter ego. Nel caso di Sulligi ci sono più personaggi, però questi personaggi immagino abbiano fatto la fine degli alter ego di Pessoa, che in un racconto di Tabucchi sono immaginati a colloquiare con Pessoa stesso. Quindi i suoi personaggi immaginari a un certo punto si trovano a cena con l'autore in un racconto di Tabucchi. Ecco, la mia domanda è: che cos'è? Che cosa avviene con i tuoi personaggi? Immagino che per te siano creature che tu ti sei immaginato nel dettaglio, come emerge da questo romanzo. Io prima ho detto sono personaggi plastici. La mia domanda è: che rapporto hai tu con questi personaggi? Colloqui con loro? Come li hai creati? Sono tue creature che noi conosciamo tramite la lettura, ma che immagino siano per te dei personaggi con cui tu c'hai a che fare tutti i giorni. Ecco, quindi qual è il tuo rapporto con i personaggi che ti sei inventato? Beh, la relazione tra autore e personaggi è sempre, non è mai asettica. uno influenza le scelte dell'altro. È un rapporto complicato e qualche volta anche difficile. Però alle volte ci si accorge che l'autore viaggia tra sadismo e tenerezza nei suoi nel sviluppare i suoi personaggi. Tant'è che quando avevo scritto metà del libro Non uccidete i leopardi, avevo mandato il file a una nostra amica, medico psicoanalista, per sapere, per avere un suo parere, visto che anche questa nostra amica è una grandissima lettrice, poi scrive, eccetera. E lei mi stupì moltissimo perché mi rispose dicendo: guarda che quel personaggio lì mi piaceva tantissimo, ma perché l'hai fatto morire? E io sono rimasto un po' basito, ho detto, forse ha ragione. E allora mi sono inventato, e nell'economia del romanzo poi ha reso tantissimo, è andata anche molto bene, di farlo rivivere, cioè non l'ho fatto morire per questo motivo qua. E alcune sere fa sono stato a Trento a sentire Maurizio De Giovanni, grande scrittore che voi conoscete, napoletano, e era presentato da Alberto Faustini, il direttore del nostro quotidiano, e lui infatti, anche lui raccontava questo, dice: quando io mi capita di uscire, a parte che lui è un po' sadico, lo è con i suoi personaggi, mi capita di uscire a Napoli, incontro dei miei lettori che col dito alzato mi fermano e dice: ma lei perché ha trattato così male quel personaggio lì e l'ha fatto morire? E quando è che si sposerà finalmente il commissario Ricciardi con la figlia del cappellaio? E lui dice: rimango così. In effetti mi rendo conto che alle volte, insomma, c'è questo rapporto un po' strano con i personaggi. Qualsiasi scrittore, anche così, si chiedi come li vedi i tuoi personaggi, dice: ma non lo so, io li scrivo, poi sono loro che mi guidano nella storia. Questo è. Sì. E a proposito di personaggi, la lettura che adesso andiamo a sentire delinea i personaggi. No, tu hai detto donne forti, personaggi femminili molto forti si trovano in questo romanzo. È una tosta la Katia, no? Questa quasi l'eroina un po' del racconto. Ebbene, andiamo a sentire un'altra pagina dell'autore, sempre ispirata a questa idea di lasciar parlare i personaggi, di dissolvere nello sfondo la voce dell'autore per lasciare alla narrazione pieno campo. E così facciamo noi con la nostra bravissima lettrice. La ragazza che ha la sfortuna di essere a scuola con i cinque della banda che ha terrorizzato l'istituto sta conducendo la sua battaglia contro i bulli e il bullismo. È una tosta la Katia. Tre della banda, compreso quell'essere immondo del loro capo, sono stati pestati e riconosciuti colpevoli dello stupro della ragazza ancora più giovane di lei. Sa benissimo che allo stupro hanno partecipato anche gli altri due e non vuole che la passino liscia. Ha organizzato a scuola gli striscioni con scritto i nomi dei tre, perché solo tre dei cinque stupratori verranno condannati, ma ci sono anche queste due bestie, segue nome e cognome. Sono le 6 di mattina, nessuno davanti alla scuola. Solo due compagne, le più fidate, la stanno aiutando. Le altre lei le ritiene delle decelebrate cacasotto. Ha avuto alcune idee geniali. Una è stata quella di postare su Facebook la sua poesia Acciughe e bulli, che è diventata virale nel giro di poche ore. L'altra è stata quella di mettere le foto dei cinque sopra il portone d'ingresso della scuola, con scritto sotto Wanted, vivo da rimettere nel suo elemento, la merda, non nella nostra scuola. Ha aggiunto anche un altro striscione, e questo l'ha voluto mettere da sola per non coinvolgere le sue compagne. Il preside e molti insegnanti sapevano, ma hanno taciuto. Fotografa il tutto e lo fa girare su WhatsApp, su tutti i social, alle redazioni dell'Alto Adige, della Dolomiten Zeitung e del Corriere dell'Alto Adige. Il telefono segreto non può ricondurre a lei. Ha scritto che non dovrebbero esserci persone che si fanno giustizia da sole. Si potrebbe innescare un processo di violenze incontrollabili. Ciò accade quando le istituzioni sono latitanti. L'ha scritto per non vanificare quanto sta costruendo. Il politically correct va sempre bene. Invece lei è contenta del pestaggio. Le sarebbe piaciuto partecipare. Non esclude, se gli stronzi continueranno a fare i bulli, di prenderli uno per uno e dargli un'altra bella lezione. Potrebbe essere la migliore della scuola, ma non vuole apparire troppo. Alle volte semina degli errori nelle verifiche. La sua insegnante di matematica non si capacita come un personaggio del genere possa essere stato prodotto da due genitori di così modesta intelligenza. Assieme alla sua collega di lettere, la stanno seguendo con discrezione in modo che la sua preparazione superi gli standard di una scuola professionale. Faranno di tutto perché prosegua gli studi. Katia si è allontanata dalla scuola per tornarvi all'ora di apertura e partecipare anche lei allo stupore dei suoi compagni. Squilla il telefono. È lui. Si alza presto la mattina. Adesso c'è questo ragazzo che ha già finito le superiori e che si è iscritto alla scuola provinciale superiore di sanità claudiana. È uno magro, con una gran massa di capelli neri e ricci che sembra non aver mai fatto un briciolo di sport. L'ha conosciuto a una festa. Ha subito pensato che assomigliasse a George Clooney. L'aveva colpita la sua faccia triste, ma anche non positivamente uno strano sguardo. Dopo molte birre le aveva confidato, farfugliando, di aver subito una cocente delusione amorosa, dalla quale non si era ancora ripreso. Katia, che si fa carico di tutti i mali del mondo, lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Ha 20 anni, 2 più di lei, ma le sembra un 15enne. Piacerebbe anche a lei riuscire a superare l'esame di ammissione alla Claudiana. Ecco, un esempio evidente di quanto abbiamo detto finora, cioè di letteratura come narrazione, nella quale la voce dell'autore scompare per lasciare spazio agli eventi e ai dialoghi. Ecco, questo libro, lo ricordiamo ancora una volta, è il terzo scritto dall'autore, edito dal Formichiere, che è un editore, ecco, Marcello Cingolani, che mi fa piacere menzionare, perché è molto, benché autore e editore non si siano mai incontrati fisicamente per via del Covid, hanno dei tratti in comune, perché entrambi sono due uomini molto eleganti, molto raffinati, integerrimi, con un tratto di, diciamo, old style, se posso permettermi, e con una grande attenzione al prossimo. È un editore molto severo, perché a differenza di altri editori è un editore che è severissimo nella selezione, tanto è vero che quando ha letto il manoscritto mi ha chiamato entusiasta e mi ha detto: guarda, questo è un manoscritto che pubblichiamo subito perché veramente merita. E so per esperienza quanto è difficile avere a che fare con l'amico, vado d'accordissimo, ma l'editore è molto molto severo. Il libro, che è arricchito da una bellissima copertina con il dipinto Il centro storico della moglie dell'autore, l'artista Giovanni Dapor, e che Giovanna Dapor, la quale, diciamo, dà proprio una versione artistica del romanzo. Il centro storico, se lo guardate dopo, il romanzo si dipana proprio nel centro di Bolzano. Ecco, quello che abbiamo appena ascoltato e che evoca questa idea di vendetta, no? Che è il primo istinto nell'uomo davanti al crimine, e che si distingue però dalla giustizia, che una cosa è la vendetta, che è tipica degli animali, e una cosa è la giustizia, Ecco, in questo romanzo ci sono questi simpatici giustizieri che in fondo non ci vanno giù proprio pesante, però insomma si fanno carico di, come dice, di far fronte, di rappresentare la loro idea di giustizia, e, naturalmente, che è quella a cui tutti noi istintivamente siamo legati. Una banda di anziani che poi ricompare anche alla fine del romanzo e che insomma va in giro a pestare di qua e di là coloro che sono rei di gravissimi crimini. E insomma questa idea mi incuriosisce. E com'è che ti è venuta? Perché la domanda che ti volevo fare per chiudere, diciamo, prima di sentire un ultimo brano è: siccome sei molto attivo come studioso, come architetto, ma anche come scrittore, non è che per caso tu ti stai organizzando? Scherzi a parte. Sono troppo pigro, per fortuna. Sta organizzando ben altro. E così, per chiudere e prima di dare anche adito al dibattito, la mia domanda è: che cosa hai in cantiere? Cioè, che cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime tue avventure letterarie? Io ho scritto altri due romanzi. Ecco, avete visto. Che sono già finiti, già hanno passato il vaglio severo del mio editor. E che il problema adesso è pubblicare, perché Marcello Cingolani purtroppo ha chiuso questa collana, come hai detto prima, e io mi ero un po' affezionato a lui, anche sentendolo solo per telefono o nelle mail, eravamo in sintonia e mi piaceva la persona, e mi ero illuso di poter continuare con questa collana 101 i prossimi romanzi. Quando si potrebbe chiedere come mai e in questo romanzo non compaiono i titolari dell'agenzia, Cristine Spiller e Paolo Laurenzi, è perché loro sono in Perù alla ricerca di Paititi, il cosiddetto Eldorado. Lei, che per tutti questi romanzi che se ne hanno, c'è sempre degli enigmi da risolvere, e loro hanno risolto un enigma e che riporterà ai petroglifi di Pusciaro, nel campo, nella regione del Manu, Madre de Dios, dove si troverà questa avventura. Questo non sarà tanto un giallo, ma più un romanzo di avventura, alla ricerca del tesoro nascosto degli Inca. I Mille Lama. L'altro romanzo è intitolato In cammino sulla strada per Tarascona. Questo titolo un po' strano è uno dei quadri di Van Gogh, che andò distrutto nella Seconda Guerra Mondiale, perché era prima collocata questa collezione nel Friedrichsmuseum di Berlino e poi trasferito in una Flakturme, lettori della contraerea volute da Hitler, però per sicurezza, però anche questo subì un incendio, insomma tutto il patrimonio del Friedrichsmuseum andò distrutto, salvo alcuni quadri, perché in quel periodo in cui Berlino era una città aperta, insomma tutti scappavano, i russi arrivavano da est, dei bombardamenti degli alleati, insomma sappiamo bene com'era la Seconda Guerra Mondiale, mi sono immaginato che questo quadro non fosse andato bruciato ma rubato, e da lì nasce tutto un noir questa volta, ma con dell'avventura. Ecco, lo sospettavamo tutti, non avevamo dubbi, ma ti devo dire che tu pensi che il formichiere abbia chiuso la collana, però esattamente come nel tuo stile, anche lui ha mille idee, e sono convinto, ci metto la mano sul fuoco, che non avrà. Non vorrei chiamarti scivola. Non ci sono dubbi, e mi impegno al suo nome a garantire che, insomma, se i romanzi che ci aspettano hanno il livello di questo, non ci sono sicuramente dubbi, perché insomma ogni casa editrice potrebbe essere soltanto onorata, naturalmente una casa editrice di buon gusto, perché ce ne sono anche alcune di cattivo gusto. La letteratura, ahimè, è vittima, non solo la letteratura in senso proprio, ma anche la letteratura scientifica è vittima spesso di logiche mercantili. Si paga il brand spesso, no? Insomma, si vende, è importante appunto più l'audience che non la qualità del romanzo, ma del resto chi andrebbe a leggersi Gadda oggigiorno? Soltanto chi ha gli strumenti, certo, per accedere a quella letteratura. L'ho letto giorni fa. Appunto, vedete, ecco, ci siamo. E così come un fruitore d'opera d'arte, chi è che va a vedersi la Cappella Sistina e a, come dire, occorre prima capire di che cosa si tratta, informarsi, leggere, studiare per poter apprezzare la bellezza. Così come si potrebbe dire per la fisica, per apprezzare la bellezza di una formula di Einstein bisogna naturalmente prima munirsi dei requisiti necessari per accedere a questa bellezza. Allora, prima di aprire al dibattito con il pubblico, che immagino avrà a questo punto molte domande e molti interrogativi da porre all'autore, io proporrei un'ultima lettura proprio dal libro di Sollicci. Giovedì. Raffaele Lettu ha installato il ricevitore alle 16. La cimice ha fatto il suo dovere. Ha inviato al suo omologo registratore quanto basta per incastrare il laganà. Raffaele Lettu è riuscito ad entrare nel condominio la sera, dopo che tutti e due, il professore e l'allieva, in tempi separati, sono usciti prima del solito. Ha scaricato in Bluetooth la registrazione sul cellulare. La cimice è nel suo piccolo un robot e quindi come tale non ha consapevolezza. Lo scienziato italiano Federico Faggin, che con la sua squadra in California ha inventato il microchip, cambiando la comunicazione del pianeta Terra, sostiene che le intelligenze artificiali non potranno mai avere la consapevolezza degli umani. Forse è un po' ottimista sulla consapevolezza degli umani. La cimice quindi non è consapevole della sadica soddisfazione del maresciallo Raffaele Lettu con nickname Lettura quando ascolta la registrazione. Non è neppure consapevole dello smarrimento di Marlene. È vero, lei se lo aspettava e ha dimostrato un certo cinismo nel periodo dell'ipotesi, ma quando il teorema è stato dimostrato, il cinismo si è affievolito ed è rimasto un senso di vuoto. Sono le 19:30. Raffaele e Marlene, nell'ufficio della LS, hanno ascoltato i colloqui amorosi del Laganà e di Silvia. Oramai è così identificata. La Silvia non sembra tanto vittima. Forse non si rende conto di avere un cattivo maestro che ha approfittato di lei con il suo potere e, perché no, con il suo fascino per circuire un adolescente, anche se solo in apparenza già donna. Che figlio di puttana. Oddio, mia suocera un po' zoccola lo era, Marlene da pallida sta riprendendo i suoi colori abituali e anche il suo modo di fare ironico e disinvolto. Non vuole dare a vedere la botta che non è riuscita a scansare. Anche di striscio fa male. Non commentano i dettagli scabrosi della coppia. Raffaele dichiara che il Laganà è colpevole, anche se la ragazza sembra partecipativa e ancora di più perché l'ha plagiata. Affondi il dito nella piaga, ma hai ragione. Di sicuro non me la prenderò con la ragazza Silvia, anzi, penso che in questa vicenda andrà protetta la sua privacy, anche perché, e mi costa fatica dirlo, lei mi sembra presa, non vorrei dire innamorata. Raffaele apprezza la donna tradita che non vuole vendicarsi dell'altra femmina. Eh sì, Marlene è proprio in gamba. Pensa Raffaele, che si trova nella fase in cui, se può segnare punti a favore della sua nuova fiamma, è molto contento. La strada per portarla nel suo sito è oramai in discesa. Adesso che faccio? La domanda che pone Marlene è pleonastica. Fa parte di un ragionamento che ha già sviluppato una decisione. Raffaele ha capito. Tecnicamente, vuoi dire? Perché mi pare che tu abbia già deciso cosa vuoi fare della tua vita. Non contempli il perdono, mi pare. No, certo, anche perché ho il sospetto, anzi, la certezza, che questo non sia un episodio isolato. Devo farlo uscire di casa, sì, e poi passare la mano ad un avvocato divorzista, possibilmente donna. Marlene si alza e comincia a camminare su e giù per l'ufficio della LS. Raffaele rimane seduto e la guarda. Sa già cosa fare, non ha bisogno di consigli. Il mio compito finisce qui. Raffaele Lettu, maresciallo, non può sapere quanto questa sua riflessione sia errata. Mi servono alcuni giorni per sistemare questa vicenda. Non voglio invischiarti in questo finale del mio matrimonio. Penso che la tua presenza professionale termini qui. Mentre quella affettiva mi piacerebbe che proseguisse dopo la soluzione della vicenda con Federico. Dire piacerebbe non è la parola giusta. Lo spero tantissimo. Prendiamoci qualche giorno di riflessione. Anche tu vorrai pensarci. Sappi che per me non sarebbe un'avventura. D'accordo, hai ragione. È meglio partire su basi solide. Anche per me non è un'avventura. Raffaele si alza e Marlene lo abbraccia. Sta piangendo. Finalmente, pensa Raffaele. Marlene scende in strada dove ha parcheggiato la bicicletta. Brava. Ecco, l'interpretazione autentica rende quasi vano tutto quello che abbiamo detto, è stata così magistralmente esposta che non c'è nient'altro da dire. Ora, siccome sicuramente tutto quello che ci siamo detti questa sera in presenza dell'autore avrà suscitato domande, curiosità, anche curiosità molto concrete, direi di aprire il dibattito. C'è già due interventi prenotati, allora tre interventi, allora chi offre di più? Intanto cominciamo con il primo, la dottoressa Carol. Allora direttamente l'avvocato Pasquale. Allora, scusa Alberto, era una domanda che mi sono fatto, perché noi ci conosciamo da 50 anni, diciamo questo. Tu hai sempre fatto il tecnico, per cui quando io ho avuto l'avventura di leggere il tuo primo libro, L'oro di Stromboli, mi sono veramente stupito, meravigliato, sorpreso di vedere tanto della bellezza del romanzo, ma soprattutto di vedere un modo di scrivere così classico che non si addice ad un tecnico, insomma. Ecco, per cui ti chiedevo, prima, quando tu eri nel pieno della professione, ti era mai capitato, Luzzo, di scrivere o immaginavi già dei tuoi personaggi, di poter scrivere un giorno, oppure è stata una novità di 10 anni fa, insomma, questo volevo sapere. Non è stata una novità, io ho sempre avuto la passione di scrivere e avevo già scritto dei racconti, delle cose che tenevo lì così, no? Ai quali non avevo dato una grande importanza. Mentre invece ti posso dire, se c'era una cosa che mi procurava orrore, era scrivere le relazioni tecniche. Quando mi capitava, rinviavo sempre e mi ritrovavo la notte prima della consegna a fare queste cose. Mentre invece quando potevo scrivere un racconto, una cosa, certamente il tempo non c'era. Quando ho scritto L'oro di Stromboli, avevo scritto tutta la traccia a mano in un viaggio da Roma a Bolzano che allora durava 8 ore, perché durava tanto. E allora avevo già in testa questa storia, E poi ho impiegato 5 anni a terminarla, perché scrivevo per un paio di mesi, poi non avevo tempo. Dopo, quando riprendevo in mano, non mi ricordavo più quello che avevo scritto prima, guardavo gli appunti, insomma è stato un po' così. Però la passione di scrivere, per rispondere alla tua domanda, quella c'era sempre. Bravo Sulisi! Se c'è qualche altra domanda? Un altro intervento forse, prego. Volevo dire questo, una domanda di tipo generale, non relativa in specifico all'ultimo romanzo. Io ho letto gli altri due e praticamente iniziano tutti e due con quella che io chiamerei una vena storico-archeologica. Uno inizia con riferimenti ai medici, il secondo a una popolazione del Salento. E questo non mi sembra solamente un artificio per poter, come incipit per i due, mi sembra che sotto ci sia delle conoscenze di tipo più strutturate, storico e archeologico. Dopo questi primi due, io ho letto il terzo, mi aspettavo che il terzo indizio fosse una prova, nel senso che anche nel terzo ci fosse comunque qualcosa relativo a questa vena di tipo storico-archeologica. E non l'ho trovato. La domanda è, anche se in parte prima hai già risposto alla domanda, la domanda è una vena esaurita o è una vena che praticamente tornerà alla luce nei prossimi romanzi? Ecco, è la seconda opzione, nel senso che non la considero esaurita, è stata solo una pausa, la vena si è fermata un attimo, ho scritto questo romanzo in cui non c'è nulla di storico, e mentre nei prossimi, come accennavo prima, i Mille Lama si rifà a i Mille Lama. Perché i Mille Lama? È una storia che si rifà a Pizarro, quando nel 1532 lui arrivò in Perù da Panama, dove era governatore, quest'uomo che aveva già superato i 50 anni, grandissimo delinquente e assassino, anche se è presente nella cattedrale di Lima, gli hanno dedicato una sua cappella, che a me fa solo rivoltare lo stomaco il fatto che sia in quella chiesa, col suo sodale Vicente de Valverde, prelato che riteneva che i locali non avessero l'anima, questo già la dice tutta. Allora, e qui mi sono un po' rifatto alla storia, all'assassinio di Atahualpa, l'ultimo imperatore Inca, e portava al collo un medaglione d'oro, e io me lo sono inventato, che poi questo medaglione sia stato regalato, portato da Valverde in Vaticano, e viene riscoperto da un monsignore che diventa poi assolutamente un protagonista di questa storia. E quindi c'è la parte storica, è molto presente. Nel quinto romanzo, lì si parla della Bolzano del 1936, questo personaggio che poi vivrà la Seconda Guerra Mondiale, ma è solo una parte non preponderante del libro, e tornerà dalla Russia, avrà delle avventure e poi da lì nasce anche qui c'è questa parte storica, poi il quadro appunto rubato dalla Flakturm, e quindi c'è anche questa componente di questa parte della Seconda Guerra Mondiale. E non, è sempre un argomento quello storico e anche quello archeologico che mi affascina molto. Infatti i Messapi, la parte sui Messapi, anzi vi invito tutti, se andate nel Salento, andare a Latiano a visitare il museo Petrosillo Rivezzi, che è un museo che ha dei reperti messapici bellissimi, interessanti. E la titolare del museo è una nostra amica vivente, che è protagonista del romanzo, tra il resto. che non è così coraggiosa come la scrivo nel romanzo, è una professoressa un po' più tranquilla. È interessante come, insomma, quanto stiamo ascoltando faccia parte di una tradizione che è europea, come noi tutti siamo, vale a dire la tradizione del romanzo storico. Ecco, qui abbiamo anche Alberto Pasquali, che è un maestro del romanzo storico, cioè della documentazione che poi sfocia nella letteratura. Partecipiamo a un filone di grande letteratura, Manzoni, che cosa sono i Promessi Sposi se non una vicenda storico-giuridica resa in forma di romanzo, in modo tale che tutti possano accedervi e imparare dei concetti ai quali noi siamo affezionati. E lo stesso vale per questo romanzo che noi aspettiamo di leggere con grande curiosità, perché agli interessi letterari dell'architetto si aggiungono anche quelli archeologici e di ricerca. Forse ancora spazio per un intervento? Ve ne sono due in realtà, sì, forse la signora si era in effetti... Se ne fa arrivare un po'. Io ho letto tutto d'un fiato questo romanzo e devo dire che è storia contemporanea, l'ha detto prima. I ragazzi che parlano in un modo, chi che parla in un modo, perciò io lo trovo tutto ordinato, l'hanno preso da non volarlo più questo libro una volta che hai incominciato. Adesso qualche bellissimo intervento della signora, però prende sì. Questo sì. Quando grazie. Usciranno gli altri, non si sa. Ma guarda, come mi piacerebbe domani. Coming soon. Allora, grazie. Molte grazie per il suo intervento. Mi piace l'espressione storia contemporanea, perché in fondo, come dimostri, tutta la storia è storia contemporanea. Cioè anche la storia del passato ci parla sempre del presente. No, io volevo chiedere ad Alberto se la personalità dei tuoi personaggi è frutto di una straordinaria fantasia, di un'acuta capacità di osservazione del mondo che ti circonda, o dalle tante tue letture? O dalle tante? Tue letture. Allora, mi piacciono le prime cose che hai detto, perché fanno crescere il mio ego, evidentemente. Ma la fantasia direi che è preponderante. Certo che poi inconsciamente le letture ti influenzano, perché dove vai a pescare fa parte tutto della tua conoscenza, di quello che hai acquisito. Alle volte mi rendo conto che produco delle storie che non so neanche io da come. Devo dire che tra tanti miei difetti la fantasia invece è una cosa che, il gusto della che possiede. Una fantasia vulcanica. Ancora un intervento forse? Naturalmente l'autore rimane a disposizione anche per chi volesse porgli delle domande in separata sede. Abbiamo visto insomma come a Bolzano vi sia una grande creatività, grandi energie che partecipano poi a degli elementi che io ritengo europei, non solo per la schietta impronta letteraria, ma anche perché questo genere di letteratura scaturisce paradossalmente da non letterati di professione, e questo è qualcosa che riguarda anche, appunto, abbiamo citato Pessoa che era un contabile, Kafka, insomma moltissimi letterati, moltissimi grandi scrittori non sono letterati di professione. E qui appunto abbiamo il piacere di aver avuto un intervento dell'avvocato Pasquali. Mi piace anche ricordare il compianto Antonio Dattoli, era medico e poeta. Insomma, c'è una tradizione che è proprio interdisciplinare, e con queste parole abbiamo aperto la nostra seduta odierna. La chiudiamo ricordando quello che diceva il già più volte evocato Pessoa per la poesia, e cioè che chiunque contribuisce con un solo verso al mare della poesia può essere chiamato poeta. E così noi abbiamo avuto oggi il piacere è per me il privilegio di presentare il libro dello scrittore e romanziere, oltre che architetto e ingegnere, Alberto Sulisi. Grazie.